sicuri l'un l'altro della vostra riappacificazione. C'era chi baciava loro in alzo, i capelli biondi, e senza pensarci anch'io per la gioia varcai con loro la soglia del tarno. Quindi la padrona, che ora celebriamo il tuo posto, che prima di accorgersi della presenza dei fanciulli rivolse uno sguardo pieno d'amore a Giacione, per poi subito coprirsi gli occhi girando altrove lo sguardo, contrariata dalla presenza dei piccoli. E Giacione placava l'ira della sposa e la sua avversità, dicendo: non essere nemica, che ti è amica. Non vuoi che le persone care a tuo marito siano gradite anche a te? Accenda i suoi voli e convinci tuo padre, vero Dio, a non esiliare anche questi fanciulli. Alla vista dei doni non seppe resistere, accontentò Gesù su tutto. E prima ancora che i figli col padre si fossero allontanati dalla casa, si rivestì del prezioso mantello e mise la corona d'oro sul capo, acconciandosi i capelli davanti allo specchio, compiaciuta della sua immagine. Poi si levò e contenta delle gare si aggirava per la stanza quasi ballando. In seguito, uno spettacolo orribile. Ella cambiò colore, indietreggiò obliquamente, tremava. A stento evitò di cadere in terra appoggiandosi ad una sedia. Una vecchia serva, credendola in preda di misteria improvvisa, cominciò a pregare finché non vide una schiuma bianca uscire di bocca. Traurare gli occhi e il sangue come prosciugarsi dal corpo. Allora smise di pregare lanciando un urlo di dolore. Per la casa era tutto un precipitarsi. Chi ad avvisare il padre, chi in cerca dello sposo per metterlo a parte della disgrazia. Le stanze risuonavano di passi angosciosi. Quando la poveretta ebbe un ultimo sussulto, urlò terribilmente. Presa contemporaneamente da due mani, dalla corona posta sul capo uscivano gli altri che divoravano mentre il morbido mantello, tono dei tuoi figli, macerava le bianche carni della poveretta. Ancora avvolto dalle fiamme si alzava dalla sedia. Fuggiva, cercava di togliersi la corona dal capo, ma più si dibatteva, più l'oro della corona bruciava. Riconsunta dal dolore, cadde a terra, irriconoscibile se non dal padre. Non si vedevano più gli occhi e il viso. Sangue misto di acqua uscivano dal capo. Le carni mosse dai veleni invincibili si staccavano dalle ossa cadendo come lacrime di vino. Una scena terribile! Nessuno osava toccare quel corpo. Il padre, all'oscuro della disgrazia, entrò nella stanza e in lacrime si chinò sul misero corpo piangendo. Si stringeva il seno, baciava il piccolo. Disgraziata. Quale destino ti ha ridotto così? Chi ti ha strappato a un vecchio già vicino alla morte? Voglio morire con te! Finì la mente di Gemma e ti cercò di rialzarsi. Restò come inchiodato nel mantello. Come l'era i rami di alloro, lottava terribilmente per distaccarsi. Ma una forza ancora più grande lo prendeva e più cercava di sottrarsi, più le carni si sfaldavano dalle ossa. Sfuggire alla punizione. Le cose non così bello più, sono più di niente. Ora lo posso dire che chi spudoratamente dice di avere saggezza, intelletto, merita la pena più grande. Non esiste tra gli uomini uno che può dirsi felice, con la ricchezza può dirsi tu fortunato di un altro. Ma invece no. Mai. Lei che ha commesso i delitti più truci. O in fuga! L'Edea! Per sfuggire alla punizione che i familiari dei sovrani ti infliggeranno, devi seppellirti o sparire volando nel cielo! O speri di farla franca dopo aver ucciso i sovrani di questa terra! Ma non mi curo di lei adesso, penso ai miei figli. Non vorrei si vendicassero su di loro dei crimini della madre. I tuoi figli, Medea li ha. La madre. Che cosa dici? Non ci sono più. Fatemi vedere il duplice male, i cari morti e la cagna che punirò con la morte! Perché vuoi arrivare fino a me? E ai figli che ho ucciso. Rinuncia! Se vuoi qualcosa da me parla, ma non mi toccherai con la mano. Il sole è la mia difesa. Contro di me. Hai voluto sposarmi, mi hai dato dei figli, me li hai uccisi per gelosia, un letto nuziale. Beh, donna di questa terra che avrebbe fatto tanto, e io ho voluto sposare te, la donna che mi sarebbe diventata nemica, odiosa, non donna ma bestia, ancora più selvaggia della terra, più selvaggia. Vattene, infame, sei lorda del sangue dei tuoi figli. E a me non resta che il pianto, a me che non ho più donna da amare, né figli con cui stare. Ho fatto quello che dovevo. Ti ho distrutto colpendo il tuo cuore. Anche tu stai soffrendo e hai la morte nel cuore. Sta bene anche il dolore, se sono riuscita a farti soffrire. Poveri figli, quale cattiva madre vi è toccata. Poveri figli, morti per crudeltà paterna. Sarà così, ma non sono morti per mia madre. Tu li hai uccisi tradendomi. E tu, per un letto abbandonato, li hai ammazzati. Odiami pure. Smettila di parlare con quella voce amara che odio! E io detesto la tua! Non è difficile congedarsi! Come? Io non so come fare! Lo vorrei tanto! La giustizia porrà fine alla tua vita! Giasone, non c'è Dio che t'ascolti! Bestia spregevole che divora i suoi piccoli! Ma ancora la forza di piangermi e di chiamare tutti a testimone che tu, dopo averne fatto strage, mi impedisci di carezzarli con le mie mani. Oh, se io non avessi mai, mai generati, non li avrei visti poi uccisi da te. Parli inutilmente. È fatta. Terra, o sole rifulgente, guardate la donna sciagurata, è odioso che il sangue divino venga versato da mano mortale, lo so. Tutto è stato invano, il travaglio del parto, il generare figli da amare. Venire qui da luoghi inospitali, tutto è stato in vano. Le muse, ispiratrici di antichi poeti, finiranno di celebrare le mie malvagità. Il principe dei canti non concesse a noi donne di cantare al suono della lira. Ma più di noi, tutto il tempo andato potrà dire più cose sul nostro conto e su quello degli uomini.